Allora, dicevamo qua. Ok. Cosa dicevamo, cara? Cosa dicevamo? Mi sono persa. Ok. Allora, consenso, roba da froci. Consenso, roba da froci? No, è il punto interrogativo qui. Consenso, roba da froci? Non c'è il punto interrogativo. Ma noi ce lo mettiamo. Sì che c'è. Mannaggia, nella tua copia non c'è. No, no. Va bene. Va bene, va bene. Nella tua copia non c'è, però c'è il punto di domanda e è il punto principale, direi, il punto di no, domanda. No, importante invece che essere un'affermazione. Cambia un po'. Bene, sì. Ciao, qui abbiamo la nostra fidata. No, ciao, non vorrei tutti, dire assistente, tutte assistita. Assistita e che ci porterà il suo fantastico contributo. Grazie. Grazie a voi di avermi salvato, perché la mia banda mi ha completamente. Ma non lo sai se t'ho salvato. No, io lo so, di sicuro. Meglio della mia banda, che ora non per cattiveria, ma mi ha completamente abbandonato a questo. Beh, ma per un ottimo motivo. Per un ottimo motivo, che poi diremo, va bene. Allora, questo opuscolo, pamphlet, non so come lo vogliamo chiamare. Ma sì, un pamphlet, opuscolo. Piace di più, pamphlet. Va bene. Più francese. Il pamphlet, consenso sessuale, roba da froci, punto di domanda. Allora, il consenso sessuale, il sottotitolo, consenso sessuale esplicito per ragazzi che vanno a letto con ragazzi. Ma in realtà, come scopriamo poi leggendo e come scoprirete per chi avrà voglia di leggere questo opuscolo, il problema non è in realtà trattato soltanto appunto in campo omosessuale, quindi nel rapporto tra uomo e uomo, ma si allarga, l'autore del pamphlet allarga giustamente il problema e va a toccare in realtà un sacco di nodi che sono poi tipici anche del rapporto tra altre individualità e tra quindi tra donna e uomo e uomo e tutto quello che sta nel mezzo, che per noi è ovviamente tanto e indefinibile. Allora, per dare un po' il contesto, questo opuscolo sta girando già da un po' in realtà nelle distro, diciamo, così negli ambienti che trattano l'antisessismo, l'omofobia, il femminismo, il transfemminismo. Sì. Ed è interessante, effettivamente è ben scritto, è piuttosto personale, cioè lui è un autore che parte sì, un po' da autobiografico. Molto autobiografico. Sì. E per darvi un contesto di massima, lui dice appunto: sono punk, l'autore si definisce punk anarchico e ragazzo queer. Però in realtà si definisce anche bisessuale, ma non gli piace il binarismo di genere e si identifica molto di più si identifica appunto all'esigenza di non identificarsi e quindi ha fatto il suo coming out, diciamo, come queer e poi cominciando a partecipare alla cultura e all'attivismo queer prima e poi arrivato alla scena punk anarchica, diciamo, che è diventata poi la sua casa principale. Lui ammette di aver trovato in questa scena un impegno politico appassionato, il rigetto senza remore della cultura dominante e tutto ciò che insomma gli pareva più compatibile. Scusate, è successo. In realtà è una presentazione abbastanza surreale. È una presentazione molto punk, cioè, sì, molto punk. Contestuale al... Succede di tutto. Cadono i fogli degli appunti. Cadono le sedie. Va bene, finché qualcuno non ce le tira dietro stiamo a posto. No, per ora no. Allora, dicevo che lui appunto nasce appunto l'autore di questo pamphlet per darvi appunto un po' un contesto in questa scena in cui si è sentito appunto accettato, si è sentito che era possibile appunto vivere la propria sessualità in maniera più compatibile ai suoi bisogni e desideri. Di fatto lui dice, ora vi devo proprio leggere. Rieccoci dopo una breve pausa per via della luce saltata. La radiopresentazione Consenso, roba da froci? Radiopresentazione a cura di Squeer Parenti. Ci siamo. Quindi, continuiamo. Ci siamo? Ci risiamo. C'è qualcun altro che vuole, non lo so, ci sono delle cavallette, uno tsunami, c'è qualcuno che vuole lanciare... No, non le chiamare. No? Vabbè. Allora, vediamo se riusciamo a portare in fondo questa presentazione. Beh, questa persona, questo ragazzo che ha scritto questo opuscolo, e non è che lo volevo dire perché volevo raccontare, ecco, Quindi, detto questo, detto che lui viene da questa scena, quindi particolare, sì, se vogliamo, no? Una scena che comunque è una comunità che comunque teoricamente, come lui dice, ha già sdoganato, ha già lavorato su alcuni aspetti del sessismo, sì, almeno quelli base. Sì, sì, si spera. Ovviamente su questo poi influenza un po' la sua visione, ma nemmeno troppo, perché lui riesce a essere in realtà nella sua scrittura abbastanza così vicino, abbastanza capibile anche da chi magari ha delle esperienze in termini di consenso più base, o comunque ha vissuto in ambienti così dove l'argomento magari non veniva propriamente trattato. Ecco, leggendo questo opuscolo e così approfondendolo e lavorandoci, siamo venuti incontro a dei punti che ci sono sembrati interessanti come collettivo Squirt, e un ragazzo che avrebbe voluto così esprimerli stasera non può essere qui, però riporto io la sua voce, e lui appunto lavorando su questo opuscolo era stato particolarmente così attratto, gli erano sembrati particolarmente salienti alcuni punti. Lui, parlo io, però è la voce di un ragazzo omosessuale, quindi che si definisce omosessuale. Quindi lui dice che innanzitutto è importante quello che l'autore sottolinea come ipersessualizzazione degli ambienti queer, che portano spesso ad avere atteggiamenti o a fare cose anche quando magari non lo si desiderano, non lo si sentono al 100%, per dimostrare in un certo qual modo all'esterno una presa di coscienza di se stessi, o per essere dentro comunque a un ambiente in cui teoricamente ci si deve comportare così, in maniera liberata, in maniera appunto Questo è detto in soldoni, però è abbastanza interessante, sì, perché poi si riflette probabilmente anche nel rapporto fisico. Cioè lui sostiene, no, che certi ambienti, no, proprio perché sono così apertamente queer, apertamente non omofobici, non transfobici, però magari vanno un po', no, all'estremo in certi atteggiamenti, proprio per mostrare un punto, no, per dimostrare una presa di posizione. E questo però, almeno secondo il punto di vista dell'autore e sposato poi da chi lo legge, a volte mette un po' una pressione, mette un po' un bisogno, no, dell'individualità queer omosessuale, di omologarsi appunto a un atteggiamento, e poi anche nell'ambito sessuale propriamente del consenso, così magari accollarsi ruoli che forse non si sentono più di tanto, sì, realmente. E questo è un punto che nell'opuscolo è spiegato abbastanza bene. Interessante molto mi è parso un altro punto, e condivisibile anche poi dal punto di vista più femminile, che è lui dice in quanto rapporto di maschi con maschi, credere inconsciamente di essere liberi dall'idea del consenso, come dire, in quanto la cultura patriarcale ci ha insegnato che è la figura femminile la vittima, esatto, in generale nelle situazioni, e quindi tra uomo e uomo si bypassa, dice spesso, come se non fosse un problema che riguarda il mondo omosessuale, esatto, cioè questa richiesta del consenso, questa esplicitazione del consenso, proprio perché tra uomo e uomo, no, si dà per scontato, siccome la figura femminile è quella in realtà da proteggere, no, in una maniera, ovviamente in una visione erratissima, certo, però comune, allora lui appunto riporta alcune esperienze qui in questo libretto, e sono state poi effettivamente confermate da chi lo ha letto, che si bypassa appunto il consenso proprio perché lo si considera inutile in un certo senso, sì, sì, perché tra uomo e uomo effettivamente non si individua la vittima, cioè non c'è questo bisogno, sì, di proteggere. Cosa che ovviamente non è vero, proprio perché la femminilità o la mascolinità non sono assolutamente indicatori di un comportamento stereotipato, ma sono invece tratti che ognuno può avere più o meno in percentuale, esatto, dentro se stesso. Certo. L'ho detto malissimo, ma no, forse, no, è chiarissimo. Forse si è capito. Sì. Ecco, questi erano un po' i punti. Un altro punto interessante per concludere questa piccola così introduzione è che mi veniva fatto notare da alcuni compagni alla lettura di questo opuscolo, si tende molto a stereotipare tra uomo e uomo il femminile, cioè se uno dei due partner è esplicitamente, fisicamente o in alcune sue caratteristiche comportamentali, diciamo identificato più nel femminile, si dà automaticamente per scontato che sia il passivo, sì, il rapporto meno intraprendente, meno attivo, esatto, tutto quello che è, diciamo, additato solitamente al carattere femminile viene additato a chi dei due nel rapporto è considerato riveste femminile e quindi deve rivestire quel ruolo automaticamente, anche se magari invece non è così. Ora, questo magari non è direttamente una violenza, però in realtà implicitamente un po' lo è. È una fissità di ruoli che uno magari vorrebbe anche liberarsi. E soprattutto vedo che questo è molto sentito, è un problema molto sentito, è molto sofferto da molti, appunto, individualità maschili che hanno rapporti con uomini, di sentirsi subito stereotipati nel ruolo del maschile o del femminile e quindi doversi comportare poi paradossalmente, no, in maniera ancora più stereotipata o femminile, esatto, ma nella definizione societaria, esatto, che è un assurdo, no? è proprio il ribalto, cioè è proprio l'andare, no, completamente di nuovo negli stereotipi. Ecco, questi sono punti che effettivamente nel libretto, nel pamphlet, ritornano spesso in varie forme e che sono effettivamente forse i punti un po' più interessanti da dire. Poi c'è altro, c'è tanto altro, sì. E lui è bravo perché allarga il discorso anche a esperienze che possono essere condivise, appunto, come dicevamo, da individualità femminili o che si definiscono femminili, proprio perché il consenso chiaramente è un problema. Ma come dicevi te, è un problema non tanto perché non viene attuato, no? E dire vabbè, ma io ti chiedo, ok, ti chiedo il consenso, a posto. Certo. No, cioè c'è un percorso, no? Almeno ci dovrebbe essere. Rischia di non essere sufficiente. Esatto. Oppure, come dicevi anche tu prima, mi dicevi prima, il discorso interessante che viene fuori anche qui del ok, io, no, come uomo etero magari o come uomo omosessuale chiedo il consenso, ma in realtà lo chiedo come proforma, lo chiedo come una forma di perbenismo, comunque di conformismo imposto dall'esterno, esatto, su cui però non ho fatto un lavoro, esatto, non è diventata una cosa mia, è qualcosa, esatto, che io chiedo in prestito, non me ne sono appropriato veramente, lo faccio perché si deve fare, esatto, perché la norma è che in questo momento storico e c'ha più attenzione a questo aspetto, anche se è un'attenzione spesso superficiale, si chieda il consenso tra uomo e donna, tra uomo e uomo, tra donna, certo, e donna, ma in realtà molto spesso nelle esperienze di chi parla e di chi ha scritto appunto questo lavoro è molto conformismo quasi, giusto. Ecco. Allora, io volevo provare a dire qualcosa. Intanto volevo ringraziare ovviamente Virginia per avermi invitata e anche tutto il collettivo Squirt. Ma in realtà, noi ringraziamo te. No, ancora non lo sai. È un salvataggio, lo so. Provate a introdurre anche rispetto al libro in sé. E allora, io partirei dall'idea proprio di consenso. Sì. E quello che io credo, almeno per me, significa, come l'ho vissuto, insomma, in qualche modo io lo connetto molto a una pratica che serve a uscire dal vittimismo femminile, che è purtroppo ai noi ancora oggi uno degli stereotipi più duri a morire e che secondo me in parte è stato anche ereditato da un fraintendimento del femminismo. Non è che è un fraintendimento casuale, perché poggia comunque su alcune basi, perché sappiamo che comunque, almeno io e Virginia su questo siamo abbastanza d'accordo, sì, non ci piace l'accoglienza, corpo morbido, insomma, anche qui di stereotipi ce ne sarebbero tanti da decostruire, in parte e poi riproduzione di ruoli, esatto, di fatto, esatto, più questa cosa, direi di no. Oltre a questo, secondo me c'è anche un'altra questione, cioè, ovvero ci sono alcuni proprio connesso comunque al consenso, siccome parliamo di sessualità, dovremmo iniziare a chiederci, ad esempio, conseguenza mercifica ai corpi, cioè queste due connessioni non sono, diciamo, quasi mai individuate come uno dei quali, questo anche indipendentemente dall'orientamento di genere, l'orientamento sessuale. E del resto, voglio dire, perché salta? Perché non c'è più un'esperienza individuale. Cosa succede se il capitalismo, invece di occuparsi soltanto di oggetti mercificati, come li abbiamo sempre considerati fino adesso, inizia ad imporre un inconscio collettivo che è mercificato, no? Certo. E di quali desideri parliamo allora? Non sono più i nostri, no? cioè sono ancora nostre le connessioni di desideri che in qualche modo rincorriamo. Diciamo che forse la spinta è nostra, ma l'immaginario è talmente... rischia di non essere più il nostro. È difficile perché è un confine labile, no? Come quando si faceva il discorso, no, sulla pornografia spesso, esatto, si parla. Cioè l'immaginario è talmente, adesso sembra così fruibile, liberato, estremo, sì, esatto. In realtà sì, lo è, e lo è vero. Però poi nella traduzione corporale del privato di ognuno, dell'individuo, e quindi poi nel rapporto con l'altro, e quindi nel consenso, a maggior ragione, è totalmente invece alla cieca, cioè si va tanto alla cieca o si va tanto superficialmente, perché ci si affida alla forma più che, no? Più che poi a cos'è veramente la sostanza del rapporto, sì, in sé, fisico e non fisico. Sì, soprattutto appunto il problema è il momento in cui tu mercifichi qualche cosa che dovrebbe avere attinenza con la parte più vera, più autentica di te. C'è un'espropriazione che insomma va molto al di là dell'espropriazione del lavoro, dell'espropriazione del tempo libero. Certo. È un'espropriazione che in qualche modo ti impedisce di essere libero, ma veramente, nel senso libero di essere un soggetto e di iniziare a scegliere per la tua vita che cosa desideri. Quando una persona non sa più se il proprio desiderio che segue è suo oppure è imposto da altri, è una delle forme più una delle forme più semplici che in qualche modo il sistema dominante ha per asservirti. Diciamo che per rendere questo discorso più personale si può dire che magari uno sapesse e non lo sa più. Cioè, paradossalmente, secondo me, soprattutto in tutte quelle individualità che non sono binarie, che non si ritrovano in una sessualità e quindi poi in un uso, cioè, e poi in un uso del consenso no, normata, quindi uomo donna o sì, non etero, diciamo, non etero, ma tutto quello che c'è nel mezzo, paradossalmente, da una parte forse hanno una maggiore, in un certo, una capacità, una possibilità, forse in potenza, di scoprire, no? Di levare il velo e di andare oltre e di capire che cosa vogliono veramente, di esplorarlo, perché sono meno fermati, diciamo, da certe dinamiche. Da un'altra, però, allo stesso modo sono comunque no? Inseriti nella società e quindi sono comunque vittime della mercificazione del loro desiderio, anzi della... e di essere poi usati a maggior ragione come esempi, no? Come stereotipizzati all'infinito, cioè all'estremo. Certo. Per cui diciamo che paradossalmente, come dice lui anche qui, è altrettanto difficile essere altro rispetto alla norma quanto lo essere. Cioè, ok, la norma, la norma non se ne accorge nemmeno, cioè la gente X manco se ne accorge della differenza tra il proprio desiderio, da cosa, non se la pone nemmeno sto problema. Cioè, vede il porno su YouTube e pensa che quello sia, certo, quello che vuole, esatto, e va dietro a quello. Paradossalmente, invece, a mio umilissimo parere, chi si sente altro, chi non si sente per forza infilato in una categoria, ha una possibilità di capire di più, ma allo stesso tempo è anche più debole in un certo senso. La sua posizione non più debole, ma è più difficile, è più instabile, quindi è più facilmente anche sviabile, utilizzabile, mercificabile. Sì, sicuramente, più asservibile. Credo. Ma infatti in questo senso, secondo me, più che parlare appunto di vivere e di vita, oggi è veramente una sopravvivenza, questo flusso proprio ininterrotto di immagini mercificate che appunto arrivano in continuazione senza soluzione di continuità. E in questo senso è difficile, secondo me, che ognuno riesca a recuperare un proprio simbolico, perché nel momento in cui tutte le immagini e tutti i simboli in qualche modo sono già mercificati, certo, il rischio è veramente di ritrovarci nella solitudine di un vuoto che poi è un vuoto riempito di niente, no? Come dire. In questo senso, secondo me, appunto, noi stiamo un po' rinunciando a combattere una guerra, che è questa guerra, che non è soltanto simbolico, però è indispensabile per riacquisire autonomia e autocentratura, no? E per rafforzare soprattutto i nostri percorsi, che devono essere necessariamente singolari, di emancipazione e liberazione, perché è soltanto così che si può almeno provare a evitare di cadere un po' nel tranello della lusinga sociale, cioè quello che dicevamo prima, che ci permette effettivamente i nostri giochi erotici estremi, per cui giochi orgiastici, sadomasochistici, feticistici, quello che vogliamo, però in realtà ci permette di farli per assoggettarli e contemporaneamente per valorizzarli come merce. Certo. Quindi noi rischiamo di essere, diciamo, i migliori imprenditori di noi stessi, ma senza rendercene conto, e soprattutto facendo guadagnare un sistema che ci opprime. Quindi, secondo me, non sono più tanto le pratiche in quanto tali a far saltare oggi il piano dell'asservimento, no? Non siamo più ai primi del Novecento, dove i surrealisti, insomma, facevano scandalizzare scandalizzavano la borghesia come hanno fatto con The Sad, no? Certo. Ma è il tempo semmai di inventare un po' un modo di cortocircuitare e di fare un po' un blackout di tutto questo simbolico imposto. Anche perché secondo me, appunto, la verità del desiderio di ciascuno per sua essenza, per me è facile, io sono anarchica, per me è, diciamo, è istintivamente così, non può che essere individuale e singolare. D'altra parte è anche vero che la prima pratica rivoluzionaria è dire no, e nel momento in cui però per dire no occorre essere un soggetto, è qui il nodo, insomma, non è che possiamo sviare questa cosa, dobbiamo cercare comunque di capire com'è che riacquistiamo un'autonomia e soprattutto una consapevolezza di soggetto, no? E quindi da questo punto di vista è proprio questo che ci è stato tolto, no? Più profondamente nella nostra parte erotica. Sì. Però è proprio là che dobbiamo iniziare a muovere una guerra, che, appunto, ripeto, non è una guerra solo simbolica, ma è anche reale, concreta. È concreta soprattutto agli oggetti che oggi ci vorrebbero definire come merci tra le merci. Quindi è questo l'elemento su cui quantomeno dovremmo iniziare, secondo me, a discutere, a riflettere, perché spesso, appunto, la questione del consenso è essenziale, è ovviamente anche immediatamente utile. Però rischia di diventare un pochino, come dire, la toppa a un problema che in qualche modo esce veramente e cede. Sì, a questo sono consenso, d'accordo. Perché sì, il consenso si pone comunque tra soggetti, non tra oggetti. Quindi nel momento in cui noi siamo mercificati completamente, di quale consenso parliamo? Sì, su quali pratiche? Chi le ha scelte? Sono d'accordissimo, veramente d'accordo. Per tornare invece appunto a quello che lui tratta direttamente... Sì. Volevo leggere giusto due righe. Lui parla di molti uomini a cui piace il sesso con gli uomini, questo piacere è carico di sensi di colpa, di segretezza, di non accettazione e di altre emozioni dolorose imposte dal condizionamento di una società omofoba. Per questo molti ragazzi trovano incredibilmente difficile parlare liberamente dei loro desideri. Alcuni trovano ripugnante parlare ad alta voce o sentire qualcuno parlare delle sue pratiche sessuali o di quelle che desidera, in particolar modo per i ragazzi non dichiarati che si identificano come etero ancora. E verbalizzare il proprio desiderio significherebbe affrontare il lato di essere gay in un modo che non potrebbero gestire, che non sono preparati a gestire. È per questo che la comunicazione con i gesti, il linguaggio del corpo, spesso attraverso, che ne so, il filtro dell'alcol e delle droghe, costituisce il solo mezzo che hanno per vivere le loro fantasie. Ecco, questo è un altro aspetto, sì, di cui magari... non lo so, non tutti possono condividerlo, magari non tutti lo provano, però è un altro aspetto del rapporto che lui individua, della difficoltà del rapporto tra uomo e uomo. Quindi non si chiede il consenso, non si parla proprio, non si parla, dice lui, in questi rapporti tra queste due individualità, perché appunto non si è nemmeno accettato ancora parte di se stessi, e quindi è ancora più difficile poi chiedere all'altro cosa si vuole e cosa non, e dire all'altro cosa si vuole e cosa non si vuole. Questo è uno degli esempi che lui fa. E poi anche un altro aspetto, un'altra frase che avevo colto e che ti ricordi, ne avevamo parlato e mi aveva molto colpito, era appunto quello che avevi accennato prima rispetto alla ipersessualizzazione, e si vive questa spinta alla realizzazione attraverso il sesso, no? Sì. Che lui mette in evidenza come una cosa che in realtà è stata molto frustrante. E mi ha colpito molto il fatto che, appunto, dice, questa pressione alla sessualità, no? Una pressione alla realizzazione attraverso il sesso, era in qualche modo forzata, altrimenti venivamo considerati come bloccati, pudici e repressi. E quindi c'era proprio una valorizzazione sociale attraverso il sesso, no? Un'iniziazione rituale quasi. Una facilità nel contatto fisico, lui scrive, no? Un'accettazione più forte del fatto di superare i limiti delle altre persone o dell'essere insistenti. E questo sì, a noi donne, insomma, ci ricorda qualcosa di molto fastidioso. Il tutto accompagnato dall'evidenza rispetto a cosa sia un'interazione sessuale normale, tra virgolette, con una forte centralità del cazzo e della genitalità. Quindi, come dire, un'espressività maschile proprio mainstream, quella a cui noi non vogliamo essere più abituate, no? Sì, e che era quello un po' che ci diceva anche prima l'altro compagno, sì, con cui abbiamo parlato, sì, sempre sì, di questo opuscolo. Un altro stereotipo che si va a creare, un'altra figura stereotipata che si va a creare appunto nel rapporto tra uomini e uomini è il no? La riproduzione del maschio alfa, sì, nella comunità, no? E poi anche nel rapporto, sì, c'è un traslare proprio dal maschio etero alfa classico, no? Che sì, si impone, che pensa che la forza vada dimostrata nella prevaricazione dell'altro o dell'altra, e c'è un traslamento proprio all'interno della, invece del rapporto tra uomo e uomo, della comunità appunto sessuale, in cui ci diceva appunto questo compagno di cui noi riportiamo l'esperienza, questa estrema stereotipo, cioè questo ruolo del maschio che va, sì, che ha il rapporto con gli uomini, ma che rimane maschio nel senso societario del termine, nel senso stereotipato del termine, e quindi anche questo crea una barriera nella comunicazione del consenso, sì. No? Perché se io mi sento maschio alfa, è maschio che non deve chiedere, figurati se lo devo chiedere in rapporto a un uomo, certo, che non è nemmeno una donna, e non è quindi una vittima, e non è un rapporto, no? Etero, quindi si pensa che non ci sia. E quindi questa è un'esperienza che viene raccontata spesso dalle individualità che si definiscono omosessuali, sì. Ecco, per dare un po' una chiusa, diciamo, una così un giro di vite. È interessante alla fine anche il modo in cui l'autore tratta il problema quando la violenza accade, cioè lui fa a un certo punto fa un salto avanti e va a toccare il tema molto delicato della violenza in quelle comunità che dovrebbero invece si spera almeno dovrebbero aver lavorato invece sulla, sì, sulla avere almeno gli strumenti, esatto, avere gli strumenti per trattare gli atti di violenza, di prevaricazione, uomo uomo, donna donna, cioè. E tutto quello che ci sta nel mezzo, ahimè, come ben sappiamo molti di noi anche che sono qui stasera, che ci ascoltano, purtroppo invece anche nelle comunità più progredite, in quelle che si raccontano di essere comunque ecco, conce, no? No, di aver preso comunque coscienza di determinati problemi sulla sessualità e sul sessismo, in realtà poi accade comunque che ci siano delle prevaricazioni, che ci siano delle violenze sull'altro. E lui fa un discorso molto interessante, che è difficile riassumere, ma diciamo ci proviamo, sul termine community accountability, cioè in relazione alla concezione femminista di accountability, questa parola voleva dire prendersi responsabilità dell'atto, no? Si fa qualcosa e ci si prende la responsabilità, l'accountability, che sì, poi non si può tradurre in inglese. Ecco, lui va oltre e dice la dinamica comunitaria di accountability ha come base l'idea che ogni atto di discriminazione, violenza, prevaricazione commesso da una persona nei confronti di un'altra tocca tutta la collettività nel suo insieme, quindi diventa un problema collettivo da affrontare collettivamente. Questo è molto, sembra molto banale, ma in realtà è molto importante, no, perché in realtà la vittima, poi quella che chiamiamo la vittima diciamo, no, della violenza, spesso si ritrova sola, si ritrova isolata, indebolita sì. Quindi quindi anche nella gestione della cosa del cosa fare in reazione alla violenza deve essere collettiva a livello di comunità, il che implica da una parte il fatto di far prendere la responsabilità alla persona che ha commesso l'atto e dall'altra il sostegno alla persona che l'ha subito. Il tutto implica inoltre la partecipazione attiva della persona che ha commesso l'atto, che deve renderne conto a tutta la comunità, ma deve anche renderne conto, cioè prendere coscienza a se stesso. Pare banale, ma veramente poi purtroppo non lo è, e si rischia poi di riprodurre anche in quelle comunità che dovrebbero essere più liberate, si rischia un po' di riprodurre invece un processo democritico, no? di legge in un certo senso, che però non ci appartiene e che poi non funziona, e quindi no, in realtà la vittima della violenza si ritrova in questa buffissima area grigia che sta nel mezzo tra la gestione dell'atto di violenza classico, societario, quindi con la denuncia, e invece la gestione di e di là invece tutto quello che dovrebbe essere invece la gestione collettiva, comunitaria di una piccola micro società che dovrebbe aver capito. Ecco, mi è capitato di vedere purtroppo anche nella mia città, purtroppo negli ultimi mesi anche, degli esempi di quanto questo sia così vero e di quanto, come dicevi te, il consenso sessuale appunto è una toppa, no? che si sta mettendo e che però non si riesce a volte a fare tutto un discorso precedente che servirebbe poi a aver introiettato il consenso, la pratica del consenso, e a poterla riprodurre nella maniera più giusta per tutti. Sì, ecco, io credo insomma che per me diciamo, le tracce più importanti, ovviamente non va letto come tutte le cose, va esplorato. Mi è piaciuto proprio perché, e lo consiglio, insomma, lo trovate in tutte le migliori, librerie, le migliori distro, le migliori squat. Leggetelo, riproducetelo, diffondetelo. Ma si trova anche su internet. Si trova anche su internet. Sono attenzione, qui. Ormai è diventato un classico. Sta diventando un classico. Consenso sessuale, roba da froci, punto interrogativo. Insomma, noi pensiamo di no e no, e no. Niente. Direi di no. Direi proprio di ci no. Ci piacerebbe sapere cosa ne pensate voi e così. Ah, se qualcuno ha una domanda tra il pubblico. C'è un po' di pubblico. Sì, va bene, ok, no, risparmiamo la miseria. Risparmiamo la miseria. Per noi è tutto. No. Buon tuco alla regia, okay. Ci ha sostenuto e lo ringraziamo. Ringraziamo la polveriera e diamo un ultimo. Cioè, stasera in Piazza Santo Spirito si sta svolgendo una festa queer, così per attirare. Domani è la giornata contro l'omofobia, la giornata mondiale contro l'omofobia. A noi non ci basta che ci sia una giornata all'anno, vogliamo che, insomma, vorremmo che ogni giorno fosse un giorno contro l'omofobia, contro il sessismo, contro il razzismo e contro il fascismo. E se volete venire a così A curiosare, a divertirvi, a parlare o a bere in Piazza Santo Spirito, sì, da ora. Quando chiude la polveriera, venite tutti in Piazza Santo Spirito. Perfetto. Bene, grazie mille. Ciao alla polveriera. Ciao.